di Simone Spezia. Rivolta contro il racket, denunciano in 33 a Bagheria in Sicilia, finiscono in manette 22 persone, tra le vittime delle estorsioni un imprenditore che ha pagato per 20 anni. Strade distrutte, ferrovie impraticabili, all'indomani dell'ondata di maltempo che l'ha investita, la Calabria si ritrova con la costa ionica praticamente impercorribile. L'aereo caduto nel Sinai, non è escluso l'atto terroristico, recuperate le scatole nere, ma non c'è stato un impatto dall'esterno, almeno secondo l'Egitto. Legge di stabilità, i dubbi dei tecnici di Camera e Senato sul gettito del canone in bolletta, rischi tensioni per le risorse della sanità e per i bilanci dei comuni a causa del taglio della TASI. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In apertura andiamo a Bagheria, dove le denunce di commercianti e imprenditori hanno portato allo smantellamento di una cosca e ad un duro colpo al racket. Ribellarsi al gioco del pizzo si può. Grazie alla dettagliata ricostruzione fornita da 36 imprenditori che hanno trovato il coraggio di parlare dopo decenni di omertà, è stato possibile tracciare la mappa del racket che ha portato al blitz dei carabinieri del comando provinciale di Palermo di oggi. Scoperte una cinquantina di estorsioni e arrestati 22 capi e gregari del clan di Bagheria, accusati a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, sequestro di persone e danneggiamento a causa di un incendio. Le indagini hanno evidenziato una pesante attività estorsiva esercitata da alcuni temuti capimafia che dal 2003 al 2013 si sono succeduti ai vertici del clan di Bagheria. Le estorsioni riguardavano in particolare il settore edilizio, ma anche altre attività remunerative, dai negozi di mobili ed abbigliamento alle attività all'ingrosso di frutta e pesce, dai bar alle sale giochi ai centri scommesse. Il colonnello Giuseppe De Riggi, comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo. Un elemento trainante di questa operazione è stata la collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e le associazioni Addio Pizzo, Libero Futuro, la magistratura, per poter sostenere le dichiarazioni di questi imprenditori che hanno trovato appunto il coraggio di raccontare la loro vicenda. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ne torneremo a parlare più avanti, intanto il commento di Daniele Biacchessi. Il muro dell'omertà è crollato a Bagheria, nel cuore delle attività illegali di Cosa Nostra. È accaduto tutto in poche settimane, come una vera rivoluzione spontanea. 36 imprenditori hanno ammesso di aver pagato il pizzo. Alcuni di loro sono stati minacciati per 20 anni. Uno in particolare aveva iniziato a pagare 3 milioni di vecchie lire, finito sull'astrico e ha dovuto chiudere l'attività. Poi tutti insieme non ce l'hanno fatta più di versare denaro alle cosche, di subire vessazioni e hanno denunciato i loro estorsori. È la breccia che ha aperto la strada per assestare un nuovo colpo a Cosa Nostra ed è il segno che i tempi sono davvero cambiati e che imprenditori, commercianti finalmente si ribellano nel solco del pensiero di Libero Grassi, l'imprenditore ucciso a Palermo 24 anni fa. Ci spostiamo pochi chilometri più a nord per tutt'altro argomento. Andiamo in Calabria, nella provincia di Reggio. Le piogge intensissime, il dissesto idrogeologico producono danni devastanti. Le immagini che trovate sui giornali che girano su internet mostrano la 106 Ionica, un'arteria fondamentale per la regione, sventrata da fango e detriti, e una ferrovia sospesa nel vuoto dopo che il terrapieno sul quale era adagiata è stato portato via. Facciamo un punto. È ancora attivo l'allerta meteo su Calabria e Sicilia, anche se la situazione meteo è in netto miglioramento, dice la Protezione Civile. Dal 30 ottobre sulle aree colpite della Calabria, che sono principalmente quelle ioniche, sono caduti in media 500 mm di pioggia, con il record annuale italiano della stazione meteo di Chiaravalle Centrale in provincia di Catanzaro, che ha fatto registrare 740 mm. La linea ferroviaria ionica e la statale 106 sono interrotte in più punti per frane e smottamenti. Gravissima l'interruzione di Ferruzzano, dove sono stati spazzati via strada e binari. La Protezione Civile calabrese ha istituito una task force con Regione, Università della Calabria e CNR per controllare le numerosissime frane che potrebbero ancora cadere. Frane e allagamenti anche in Sicilia, in particolare nelle province di Messina, Catania ed Enna. In quest'ultima città sono state evacuate 6 famiglie per una frana nel centro della città. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La regione è a rischio per la sua stessa conformazione, spiega Francesco Fragale, presidente dell'Ordine dei Geologi della Calabria, ma certo si potrebbe far prevenzione. L'intervista è sempre di Laura Bettini. In Calabria, come diceva, tutti i comuni presentano un'area almeno ad alto rischio idrogeologico, tutti i 409 comuni della Calabria, ed è da considerare che sono state censite 9.000 frane in Calabria. La Calabria, lo sappiamo, è una delle aree, dei territori più alto rischio d'Italia, e assieme alla Toscana detiene questo triste primato di regione più colpita storicamente da numero di eventi, per numero di eventi ogni anno, sia di tipo franoso che alluvionale. Senta, però questo significa anche che ci dobbiamo arrendere all'idea che questa è la situazione della Calabria, o si può intervenire? No, assolutamente no, per carità. Dicevo, c'è questa predisposizione già intrinseca proprio delle caratteristiche territoriali, però se poi a questo ne aggiungiamo la cattiva manutenzione del territorio, che non è stata per nulla fatta in questi ultimi anni, a questo aggiungiamo alcuni interventi dissennati dell'uomo, e questo naturalmente contribuisce, accentua maggiormente questo problema. Quindi bisognerebbe proprio cambiare direzione, rotta. Siamo all'ampia pagina di esteri, iniziando dall'indiscutibile vittoria elettorale di Erdogan ieri alle elezioni in Turchia. La Nazione, ha detto oggi, ha scelto la stabilità, e questo voto tra l'altro è stato premiato da un andamento positivo della borsa e anche della lira turca. Abbiamo in diretta l'inviato ad Istanbul del Sole 24 Ore, Alberto Negri, per un commento. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Come si diceva, i mercati premiano questa vittoria di Erdogan. Vorrei capire da te adesso che succede anche nei rapporti con l'Europa, perché lo snodo è anche questo. Beh, non c'è dubbio che Erdogan ha messo a segno una grande rivincita rispetto alle elezioni del 7 giugno scorso, quando aveva perso dopo 13 anni la maggioranza assoluta. Questa vittoria gli dà ovviamente una maggiore forza e ancora più carte da giocare nei confronti dell'Europa e degli Stati Uniti, suo alleato strategico storico di questo paese, nei confronti dell'Europa soprattutto per la riapertura del negoziato di adesione della Turchia. Molti rimarranno forse perplessi, ma come? Questo che appare come il leader meno europeista di quelli della Turchia degli ultimi anni, che adesso può consentirsi di riaprire questo negoziato? Ebbene sì, perché l'Europa ha bisogno di lui, perché è l'uomo che fa un po' il guardiano del Bosforo e della regione, ha bisogno di lui perché accetta di tenersi in casa 2 milioni di profughi siriani. La visita della signora Merkel, la cancelliera tedesca, qui è stato molto, molto esplicativo da questo punto di vista. Ma attenzione, Erdogan anche lui ha bisogno dell'Europa, ne ha bisogno per tanti motivi. Perché se vuole in qualche modo proseguire il modello turco, riprendere per esempio la corsa economica, ha bisogno degli europei. Il 68% dell'interscambio commerciale della Turchia, escluso naturalmente l'energia, cioè il gas che viene dalla Russia e dall'Iran, avviene proprio con l'Europa. Quindi in qualche modo Europa e Turchia sono costretti ad andare a braccetto. Grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore di Istanbul, per il suo commento. E siamo all'aereo caduto nel Sinai, sono state ritrovate le scatole nere, mentre prende corpo l'ipotesi di un attentato. Ci aggiorna in diretta Valeria De Rosa. Valeria, buongiorno. Buongiorno a te Simone, ai nostri ascoltatori. Allora, come dicevi, le scatole nere sono state trovate in buone condizioni, quindi l'analisi del contenuto verrà avviata nella giornata di oggi. Grande cautela nelle possibili ricostruzioni di quanto è accaduto sabato. Anche se la pista dell'attentato, liquidata come non attendibile nelle prime ore, comincia a trovare qualche riscontro. Secondo le prime informazioni più attendibili, gli analisti egiziani sono propensi nel ritenere che l'aereo non sia stato colpito dall'esterno, il che escluderebbe ancora una volta l'ipotesi del missile, almeno di quelli a disposizione del califfato, quindi dell'ISIS. Altro dato, e questo è ormai certo, è che il pilota non ha lanciato nessuna richiesta di soccorso prima di scomparire dai radar 23 minuti dopo il decollo. Secondo la compagnia, l'equipaggio dell'Airbus probabilmente ha perso immediatamente il controllo dell'aereo, e questa può essere la spiegazione del fatto che non c'è stato nessun tentativo di stabilire un contatto e di informare della situazione di emergenza. E anche per questo la Kogalimavia esclude sia il guasto tecnico che l'errore umano. Un A321, ha detto un manager della compagnia, non può spaccarsi in aria per il malfunzionamento di un qualsiasi sistema tecnico. Esclusa quindi all'inizio, a questo punto invece l'ipotesi della bomba a bordo diventa a tutti gli effetti una possibilità. Mosca nel frattempo mantiene un profilo piuttosto basso. Il portavoce di Putin, Peskov, ha solo precisato che non si può escludere nessuna delle ipotesi avanzate fino a questo momento, Le operazioni di ricerca dovrebbero terminare entro questa sera e sempre questa sera partirà la volta di San Pietroburgo il secondo velivolo per riportare a casa le vittime. Per il momento è tutto. E grazie anche a Valeria De Rosa per questi aggiornamenti. Nel frattempo aggiornamenti arrivano anche dalla Libia, o meglio dalle dichiarazioni che arrivano oggi sul tema della Libia. Parla il ministro degli esteri Paolo Gentiloni, il quale che dice che se l'accordo di pace sarà approvato dal Parlamento di Tobruk, che deve votare oggi, l'Italia insieme con Egitto, Algeria e altri paesi è pronta a sostenere e ad accompagnare la rinascita della Libia. Intanto il ministro della difesa Pinotti nega che vi fossero navi militari del nostro esercito in acque libiche. L'analisi sulla situazione nel paese di Ugo Tramballi. Le premesse non sono esaltanti, piuttosto annunciano che nemmeno oggi in Libia accadrà qualcosa di buono. È difficile infatti pensare che siano episodi casuali l'accusa del governo di Bengasi alla nostra marina di aver violato le acque territoriali libiche e il quasi contemporaneo assalto a Tripoli al cimitero italiano. Ed è dunque difficile pensare che oggi i libici votino, e ancor meno votino a favore, del piano dell'inviato ONU Bernardino León per la formazione di un governo di unità nazionale. In qualche modo il negoziatore delle Nazioni Unite, fortemente sostenuto dal governo italiano, un successo l'ha ottenuto. Ha messo tutte le fazioni d'accordo nel respingere la sua proposta, i due governi nemici di Tripoli e di Tobruk, ma anche le milizie di Misurata e di Bengasi. Hanno tutti detto la stessa cosa, si rifiutano di accettare imposizioni esterne. Ma come in tutti i processi di pace difficili, anche in Libia le fazioni non sono minimamente in grado di trovare da sole una soluzione. Serve un mediatore sopra le parti. La giornata di Roma, all'indomani del fine settimana, con il polemico addio del sindaco e l'arrivo del commissario governativo. I festeggiamenti per la riuscita dell'Expo per lui sono durati poco. Già da ieri infatti Francesco Paolo Tronca è al lavoro in Campidoglio per fare il punto sui dossier più urgenti, primi fra tutti naturalmente quelli sui lavori per il giubileo ormai alle porte. Indossando la fascia tricolore, stamattina l'ex prefetto di Milano ha partecipato ad una cerimonia al cimitero monumentale del Verano. Qui il neocommissario ha avuto anche un breve incontro con il prefetto Gabrielli. Municipalizzate, trasporti pubblici e rifiuti sono alcune tra le sfide più importanti che il neocommissario dovrà affrontare nelle prossime settimane. Ce l'ho fatta con l'Expo, ce la farò anche con Roma, ha detto Tronca, che nelle prossime ore incontrerà anche il premier Renzi. Da Palazzo Chigi è atteso il via libera al decreto che dovrebbe sbloccare 300 milioni per le opere urgenti legate all'anno santo straordinario, ma si attende anche la presentazione del cosiddetto Dream Team, la squadra di subcommissari che dovrà affiancare Tronca nella guida della capitale fino alle elezioni nella primavera del prossimo anno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Raffica di audizioni oggi sulla legge di stabilità, ma soprattutto la relazione dei tecnici di Camera e Senato. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così, legge di stabilità, l'esame del Parlamento, come hai detto tu, una lunga giornata di audizioni che inizia con il dossier del servizio bilancio di Palazzo Madama e di Montecitorio, l'eliminazione della TASI per le prime case dell'IMU per i terreni agricoli e gli imbullonati, limita la possibilità di manovra dei comuni, fanno notare dall'ufficio tecnico, il minor gettito derivante da questa scelta deve essere quindi compensato dal governo per non creare buchi nei bilanci comunali. C'è poi l'inserimento del canone RAI nella bolletta elettrica, chieste informazioni sul maggiore gettito che potrebbe derivare da questa innovazione anche a fronte di una riduzione del canone a 100 euro annui. Altro punto caldo è la sanità e le risorse a fronte dell'ulteriore decremento nel 2016 dei fondi già ridotti quest'anno rispetto a quanto previsto in origine, si potrebbero creare tensioni lungo tale linea di finanziamento. Per i tecnici poi però la centralizzazione degli acquisti in campo sanitario dovrebbe facilitare il conseguimento dei risparmi. Chiesta una stima anche sulle possibilità di accedere al part-time per i lavoratori che maturino i requisiti per la pensione entro il 2018 e sull'innalzamento del limite del contante si fa notare che il governo ha cambiato rotta. Oggi pomeriggio le audizioni di sindacati e Confindustria. A te Simone. E vedremo che cosa emergerà anche da queste. Grazie nel frattempo a Elisabetta Fiorito. Siamo al calcio con i due fronti, da una parte il campionato, le partite di campionato di ieri, e dall'altra questa nuova bufera su Tavecchio. Carlo Genta, ciao. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Da dove vuoi partire? Partiamo dal campionato, va. Partiamo dal campionato, che è meglio, più facile. Campionato, giornata interessante che ha rilanciato la Milano del calcio. l'Inter che ha battuto la Roma sabato sera ed è in testa alla classifica insieme alla Fiorentina che ieri ha battuto con grande facilità il Frosinone. E poi il Milan che ha giocato la sua miglior partita della stagione vincendo per la prima volta contro una concorrente diretta, contro una squadra forte come la Lazio, che aveva vinto le ultime 9 partite interne consecutive. Ebbene, ieri il Milan ha fatto il sacco di Roma vincendo 3-1, salendo a 19 punti in classifica ed eventualmente proponendosi per alcune posizioni che contano, mentre il Napoli ha pareggiato 0-0 a Genova con un po' di polemiche arbitrali, forse sono le prime della stagione lanciate da Sarri. E dunque un campionato sempre più aperto, incerto, equilibrato, divertente. Il che appunto, come dicevi, è anche divertente, così come qualcuno trova divertente. Io tutta, no, tu neanche, credo. Neanche io la vicenda Tavecchio. Sì, una vicenda che ha dei contorni abbastanza strani come sempre, non un'intervista o una conversazione, non so quanto consenziente, risalente a giugno, è stata resa nota ieri dal sito internet del Corriere della Sera. Tavecchi ha completato l'arco istituzionale perché dopo Optipoba, dopo le donne handicappate, adesso ci sono gli ebreacci, in particolare Anticoli che si è comprato la Lega Nazionale Dilettanti che per anni è stata sua. E i gay, non ha mai niente contro nessuno, niente contro nessuno, però tenetemeli lontani. Quindi parole che possiamo definire sconvenienti, a dir poco. Esatto, dire. Se vogliamo fare i bravi, ma parole inaccettabili da parte del presidente federale che si è difeso a modo suo dicendo che era un tizio che gli stava chiedendo dei finanziamenti, che grosso modo era un ricatto, ma quelle parole le ha pronunciate lui, è come se ci fosse un Tavecchio presidente federale che tutto sommato non sta operando male ad un anno dalla scadenza del mandato, e un Sciur Carlo che invece dice cose inaccettabili perfino nei peggiori bar di Caracas. Inaccettabili, e lo dice anche l'ambasciatore di Israele in Italia, il quale ha rilasciato una dichiarazione a quale ribadisce: nessuno può dubitare che come israeliano, ebreo e parte di un gruppo di minoranza io possa minimamente accettare parole quali quelle pronunciate appunto da Tavecchio. Vedremo che conseguenze avrà tutto questo, e se avrà conseguenze, perché abbiamo visto che da questo punto di vista quel mondo è piuttosto strano. Non credo che avrà conseguenze sulla poltrona di Tavecchio. Vedremo, grazie a Carlo Genta, che ritroviamo come sempre alle 14 in tutti i convocati. Il traffico, ci ritroviamo tra un attimo, torneremo in Calabria per i problemi generati dalle piogge, poi parleremo anche della vicenda di Bagheria, di questi imprenditori che denunciano. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Le notizie principali di oggi, iniziando dalla Calabria, avete sentito tra l'altro qualche aggiornamento pochi istanti fa in strade in diretta, strade distrutte, ferrovie impraticabili. La Calabria si trova praticamente con la costa ionica impercorribile all'indomani delle pesanti piogge che l'hanno colpita. La legge di stabilità, ci sono i dubbi dei tecnici di Camera e Senato sul gettito del canone in bolletta, e poi parlano di rischi di tensioni per le risorse della sanità. La rivolta contro il racket, hanno denunciato in 33 a Bagheria in Sicilia, sono finite in manette 22 persone. Sull'aereo caduto nel Sinai non si esclude l'atto terroristico. Abbiamo parlato di strade, ma problemi ci sono anche sulle ferrovie calabresi dopo appunto questa forte ondata di maltempo che ha investito la regione. Umberto Lebruto è direttore di produzione di Rete Ferroviaria Italiana, buongiorno. Buongiorno a voi. In che situazione siamo? In questo momento abbiamo ripristinato un ulteriore tratto, la Roccella Ionica Bianco. Rimane fuori servizio da Bianco fino a Melito Porto Salvo, dove praticamente sia la statale 106 che un pezzo di rilevato ferroviario sono stati erosi dal Ferruzzano, un torrente in piena. È quella foto, è quell'immagine che abbiamo visto, Lebruto, di questa ferrovia praticamente sospesa nel vuoto. Sì, quello lì che vediamo sono le traverse e le rotaie, quindi praticamente il binario. Manca la sede, manca il rilevato ferroviario che normalmente è fatto di terre sciolte e compattate. Quel pezzo lì è stato eroso dal dilavamento del torrente del Ferruzzano, che in un'ansa a monte della ferrovia ha straripato e quindi ha buttato via un pezzo di rilevato ferroviario e anche un pezzo di strada. Quindi in quel punto non si passa perché la 106 no. Ionica è chiusa e la ferrovia è chiusa. Quanto ci si mette a ripristinare la Beh, ci vorranno alcuni giorni. Stiamo iniziando a lavorare da questa mattina presto, dalle prime ore della mattina abbiamo iniziato a lavorare. Per ricostruire quel tratto di binario bisogna portare terre e compattarle con dei camion, quindi bisogna anche avere il tempo giusto, se l'evento meteo continua ad imperversare diventa complicato, però ci stiamo già attrezzando, stiamo già portando terre dalle cave più vicine e direi fra qualche ora saremo in grado di dire con precisione il ripristino quando avverrà, però per questa settimana la linea ferroviaria, quel tratto di linea ferroviaria che va da Bianco a Melito Porto Salvo è interrotto. La ringrazio, grazie ad Umberto Lebruto, direttore di produzione di Rete Ferroviaria Italiana, e parleremo più avanti, torneremo a parlare della situazione in Calabria col presidente della regione Calabria. Intanto saluto Valerio D'Antoni, che è avvocato di Addio Pizzo, un'associazione con la quale spesso abbiamo dialogato e che spesso abbiamo ospitato, che si occupa appunto di combattere il racket. Ebbene, oggi c'è stata questa importante operazione, 33 tra imprenditori, commercianti e non solo, che hanno denunciato, e 22 arresti a Bagheria. È una vicenda che in parte avete seguito, D'Antoni? Sì, in realtà sono diversi mesi che Addio Pizzo è presente su quei territori. Oggi è una bella notizia, diciamo, è l'epilogo di un'ottima sinergia che si è creata con gli organi istituzionali e inquirenti e Addio Pizzo e il movimento anti-racket in generale che si è mosso sul territorio. La cosa molto importante è che questi fatti vengono accertati sulla base di strumenti tradizionali, probatori, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, servizi di osservazione, intercettazioni, eccetera. Questo quadro si arricchisce, diciamo, ulteriormente con una collaborazione netta, seria e completa di decine di imprenditori. E questo è importante. Se non erro, D'Antoni, voi qualche mese fa faceste tra l'altro proprio una campagna tra i commercianti e gli imprenditori di Bagheria per sensibilizzarli a tutto questo e per spiegargli come funziona nel momento nel quale iniziano a collaborare. Sì, in realtà diverse iniziative abbiamo portato a termine con l'obiettivo di fare comprendere, finalmente credo proprio che ci siamo riusciti, che la denuncia per fatti gravi del genere, per pressioni estortive, per mano mafiosa ricevute, non rappresenta più, sia nella città di Palermo come in provincia, un atto di ribellione pericoloso, isolato, che espone i commercianti, ma è il segno di una presa di coscienza collettiva e quindi un atto di coerenza con il dire no al pizzo e poi collaborare fattivamente con gli inquirenti. Adesso questi imprenditori seguiranno con noi questo percorso di denuncia, di totale collaborazione, ci saranno probabilmente dei risvolti processuali, si andrà avanti insieme per vedere altri modelli di economia finalmente liberi dalla pressione malavitosa. La ringrazio Valerio D'Antoni e grazie a tutti voi per il lavoro che fate. Noi adesso ci fermiamo, c'è la consueta pausa, ci ritroviamo tra un attimo per un aggiornamento sui mercati e poi nella seconda parte della trasmissione ci faremo dare qualche dettaglio in più su quello che succede in Calabria, sentendo un'intervista al presidente della regione Calabria. Ovviamente ci riferiamo al maltempo, a tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Un riassunto delle notizie, la legge di stabilità, ci sono i dubbi dei tecnici di Camera e Senato sul gettito del canone in bolletta, i tagli alle regioni riferiscono varranno 17 miliardi tra il 2017 e il 2019. Un'ultima ora dalla Calabria, dove il torrente Catone è esondato nel comune di Laganadi nel Reggino provocando gravi danni, sono state evacuate 5 famiglie, intanto ci sono strade distrutte e ferrovie impraticabili. La rivolta contro il racket, ne abbiamo parlato poco fa, hanno denunciato in 33 a Bagheria in Sicilia, finiti in manette 22 persone tra le vittime delle estorsioni, un imprenditore che ha pagato per 20 anni. Infine, l'aereo caduto nel Sinai, non escluso l'atto terroristico, sono state recuperate le scatole nere. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In primo piano oggi, come sapete, come vi abbiamo raccontato, le vicende della regione Calabria colpita da un'ondata di maltempo molto forte che ha interrotto alcune strade. Abbiamo raggiunto poco fa il presidente della regione, Mario Oliverio, abbiamo parlato con lui di quello che succede, della situazione. È stato un disastro, proprio un disastro. Interruzioni di strade, interruzione della ferrovia della Ionica, interruzioni dei collegamenti tra molti comuni interni e la viabilità più generale. Adesso, subito dopo, vedremo quali sono anche le ferite aperte sul territorio, perché c'è stata davvero una caduta eccezionale di acqua, di quantità di acqua concentrata nella zona ionica, che ha determinato un disastro. Poi tutto questo naturalmente ha trovato un territorio impreparato, perché da decenni non si pratica la manutenzione delle aste fluviali, e quindi tutto questo ha determinato una condizione davvero disastrosa. Allora, mi sembra, Presidente, che in particolare sia veramente critica la situazione dei trasporti, perché ci sono complessivamente suddivisi in quattro tratti una trentina di chilometri della 106 Ionica che sono completamente chiusi. C'è anche la ferrovia, che abbiamo visto dalle foto in quali condizioni è. Avete una idea, vi siete già fatti un'idea di quali tempi di ripristino ci possano essere? Ma adesso, proprio oggi, appena usciti dalla situazione di maggiore criticità, faremo un punto, ma io credo che bisogna intervenire perché siano rapidamente ripristinate le condizioni di mobilità. Quel territorio non può rimanere nell'isolamento, perché il crollo della strada, della 106, e le difficoltà che sono determinate anche per quanto riguarda la ferrovia, in un tratto per centinaia di metri interrotto, crea una condizione di isolamento, perché sono le uniche arterie di collegamento con il resto del territorio. Quindi è necessario un piano di emergenza per fare sì che vengano ripristinate le condizioni di mobilità nel più breve tempo possibile. Con RFI e con ANAS bisognerà vedere di concertare un programma appunto a terapia d'urto, perché non si può lasciare un intero territorio in questa condizione. Ma al di là di questo, sì, è necessario un intervento più strutturale. Presidente, la volevo portare proprio su questo, perché dalle immagini che abbiamo visto e dalle foto che abbiamo visto, insomma, va bene la grande quantità di pioggia, però evidentemente non è normale che vengano giù pezzi interi di strada, che una ferrovia rimanga addirittura sospesa nel vuoto. Ma infatti proprio questo è: noi abbiamo avuto nel corso degli anni, di un lungo periodo, di tantissimi anni, una assoluta incuria del territorio. Abbiamo avuto le aste fluviali, come dicevo prima, abbandonate a se stesse, senza manutenzione, senza interventi di ripulitura, di sistemazione idrogeologica. Abbiamo avuto da parte anche dei grandi enti di Stato una assoluta disattenzione rispetto a questo territorio. Noi abbiamo, sia per quanto riguarda la viabilità, sia per quanto riguarda la ferrovia, una condizione di assoluta marginalità, e come avete avuto modo di vedere anche dalle immagini, una condizione da terzo mondo. E credo che bisogna uscire da questa condizione. Noi abbiamo bisogno di interventi di cura, di manutenzione del territorio, e per questo stiamo mettendo a punto un grande progetto di sistemazione idrogeologica. Lo abbiamo già fatto sin dal momento in cui io mi sono insediato da qualche mese alla guida della regione, ma chiediamo agli enti di Stato, all'ANAS, alle RFI di intervenire, perché è necessario mettere in sicurezza e rendere quelle infrastrutture sicure, capaci di servire la mobilità di un vasto comprensorio che è quello della Locride in modo particolare. Così dunque il presidente della regione Calabria. Come sapete, effetto giorno è lunedì un po' particolare. Adesso sentiamo che cosa ci racconta Mario Platero dagli Stati Uniti in questa copertina della settimana del lunedì. Poi ci saranno i saluti e poi l'ultima parte dalle 13.45 alle 14 andrà in onda la nostra rubrica sull'autotrasporto. Dunque, Mario Platero. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta America, America, God shed His grace on thee. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, voglio dedicare la copertina di questa settimana allo sport, perché in questo fine settimana abbiamo avuto tre eventi importanti in tre sport diversi. Abbiamo avuto la maratona, naturalmente, abbiamo le World Series, cioè le grandi finali che determinano il vincitore del campionato di baseball americano, e abbiamo avuto per l'ippica il ritiro di American Pharoah, questo straordinario puro sangue che lo scorso giugno ha vinto la Triple Crown e quindi si ritirerà per fare lo stallone, vivrà una vita bellissima. Ma cominciamo dalle World Series. Tickets to reserve your seats for 2016. I Royals di Kansas City, nuovi campioni di baseball americano. Ieri notte i Mets, che giocavano in casa a New York, partivano in svantaggio 3-1. Il torneo si vince al meglio di 7 partite. A pochi minuti dalla fine, 2-1 per i Mets. Ma i Royals pareggiano, il resto è storia. I supplementari Mets crollano, perdono 7-2. Per i Royals quarta partita e campioni. La prima volta in 30 anni, sul campo un mix positivo da crogiolo razziale. Bianchi, spanici, neri, asiatici sono dati battaglia nel rispetto assoluto di tutti. Veniamo alla maratona. Stanley Biwott, kenyota 29enne, ha vinto la 45esima edizione della maratona. Un altro kenyota al secondo posto, Geoffrey Kamwar, e l'etiope Lelisa Desisa. Per il femminile ha vinto Mary Keitany, 33 anni anche lei kenyota, con un podio femminile completato da due etiopi, Aselef Shmergia, 30 anni, e Tigist Tufa, 28 anni. Gli italiani, il miglior piazzamento azzurro è femminile. Anna Incerti palermitana, 35enne, che ha chiuso in nona posizione. Fra gli uomini il miglior piazzamento italiano è quello di Andrea Lalli, 28enne, fiorentino. Ma dal punto di vista italiano ci sono delle cose molto interessanti che sono capitate in questa maratona dal punto di vista medico. Innanzitutto abbiamo avuto in questa maratona 8 emofiliaci. È la prima volta che 8 emofiliaci italiani vengono a partecipare a questa maratona sotto la supervisione e la cura del professor Pierluigi Solimeno dell'ospedale maggiore policlinico di Milano, e sotto naturalmente l'appoggio della Fondazione Paracelso. Sul piano sempre, diciamo, medico o parallelo a quello medico, abbiamo anche di nuovo la partecipazione dei ex tossicodipendenti di San Patrignano. Ecco, sentiamo uno dei partecipanti che ho sentito ieri sera subito dopo la corsa ai microfoni di America 24. Parti post maratona di San Patrignano, sono con Sara Carrena di Cuneo, che per 4 anni ha cercato di combattere la tossicodipendenza e alla fine ne è uscita. Se le avessero detto 2 anni fa che oggi sarebbe stata a New York a correre, cosa avrebbe pensato? Mai più me lo sarei immaginato, chiaramente, come penso tutti i ragazzi del running team di San Patrignano che sono qui oggi e che hanno finito tutti la maratona con me. Sensazione? Super soddisfatta e stanca. Ecco, al parte di San Patrignano c'è anche Gabriele Rosa, che è l'allenatore di Stanley Biwott, che ha vinto la maratona, ha vinto il kenyota, quindi ha vinto un kenyota, ma l'allenatore è italiano, dunque un premio anche per noi, ed è anche l'allenatore dei ragazzi di San Patrignano. Le due emozioni insieme. Ma direi, ragazzi di San Patrignano, già il terzo anno, il fatto che tutti finiscono per me è un grande piacere, una grande emozione, perché è un'esperienza, è una storia loro molto importante. Per Stanley Biwott è un ragazzo keniano che oggi ha fatto una grandissima gara e ha vinto, dando una grande soddisfazione anche lui, ma le due cose sono parallele. È Ecco, terminiamo con American Pharoah. Ho voluto farvi sentire questo audio perché come ha chiuso American Pharoah? Ha chiuso con una corsa a Lexington in Kentucky, il Breeders' Cup Classic. Sabato scorso c'erano 5 milioni di montepremi, ha vinto, come avete sentito, alla grande, è stata la sua corsa d'addio, molto emozionante. Ecco, vi dicevo, copertina della settimana, perché c'è stato grande entusiasmo attorno a tutte queste attività sportive, c'è chi ha vinto, c'è chi ha perso, ma alla fine prevale il senso dell'uguaglianza, della sportività. E devo chiudere con una nota, devo dire, che secondo me è molto negativa per il nostro paese. Ci sono state dichiarazioni razziste contro gli ebrei e contro i gay di Carlo Tavecchio, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. È una cosa gravissima, non c'è da stupirsi se poi vediamo questi striscioni negli stadi, che sono una vera vergogna nazionale. Io credo che si debba intervenire duramente anche a livello di governo per chiarire questa faccenda. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vede più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Direi che l'immancabile canzone è quella dei Queen, We Are the Champion. I've paid my dues time after time, I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!